Ciao a tutti, io sono Brick e questo è il mio primo podcast in assoluto. Oggi inauguriamo un nuovo appuntamento. Ogni mese registreremo una nuova puntata del podcast dove presenteremo i post più letti su Ecoblog. Iniziamo subito e, come ogni classifica che si rispetti, cominceremo dal basso. Al quinto posto troviamo il post dedicato alla Love che si scaglia contro le pellicce. È stato un argomento molto trattato su Ecoblog. Abbiamo pubblicato un filmato trovato su internet dove si vedevano gli animali scoiati vivi per farne appunto pellicce. Un filmato molto pesante che sconsiglio ai deboli di stomaco e che consiglio invece ai possessori di pellicce. La Lega Antivivisezione, proprio su questo filmato, che si è scoperto proveniente dalla Cina, ha lanciato una conferenza stampa. La RAI ha poi trasmesso qualche fotogramma del filmato e pare che l'Italia abbia chiesto ufficialmente all'Unione Europea di bandire le pellicce provenienti dalla Cina. In realtà andrebbero almeno bandite dalla vendita pellicce provenienti da allevamenti che non trattano adeguatamente gli animali. Anche se non è una necessità, ma solo un lusso, se proprio dobbiamo uccidere un animale per coprirci non facciamolo almeno soffrire, a prescindere dal paese di provenienza. Regola che andrebbe applicata anche agli allevamenti di animali che poi finiscono sulle nostre tavole. Rimane comunque un esempio di come il tam-tam della rete possa poi raggiungere i grandi media. Per saperne di più, www.ecoblog.it/cerca/pellicce. Al quarto posto troviamo una lettera spedita da un nostro lettore che abbiamo pubblicato volentieri. Analizza le scelte dell'attuale governo verso l'energia nucleare. Il post, molto lungo e denso di dati e di considerazioni personali, è stato ripreso anche da Libero Blog, dove si sono scatenati i lettori con centinaia di commenti. Avrei preferito vedere i commenti sul nostro blog, ma pazienza, l'importante è diffondere. Il terzo post più letto di questo mese parla di pellets. I pellets sono dei piccoli cilindri di segatura compressa. Sono praticamente scarti delle falegnamerie, che con apposite caldaie vengono utilizzati per riscaldare condomini e singole case. Un rifiuto che diventa risorsa, ne riparleremo in futuro sul blog. Siamo quasi al vertice della nostra classifica, dove troviamo il post intitolato «Zucchero nel serbatoio». Ovviamente non stiamo parlando di mettere letteralmente lo zucchero nel serbatoio delle nostre auto, ma di alcol prodotto dallo zucchero. In Brasile è dagli anni 70 che mandano le loro auto ad alcol e sempre più industrie che dalla canna producevano lo zucchero oggi producono anche carburante. Aggiungo che queste industrie con gli scarti di produzione producono energia e che con gli scarti e degli scarti fertilizzante per le piantagioni. Si avvicina molto a ciò che intendiamo con sostenibile. L'aumento dei prezzi del petrolio non ha fatto altro che diffondere questa soluzione, ma non finisce qui, perché il bello è che in Brasile le auto che vanno ad alcol non montano impianti particolari come ad esempio il GPL qui da noi, nessuna modifica viene fatta al motore. Questo perché le case produttrici di auto come la Volkswagen o la nostra Fiat producono e vendono in Brasile auto che montano dispositivi flex. Questa tecnologia offre la possibilità di usare un numero elevato di carburanti. La maggior parte di esperti di qui da noi magari non ne ha mai sentito parlare, mentre in Brasile ed altri paesi le vendono da tempo. Forse aveva ragione Gardini quando suggeriva di usare le eccedenze di produzione di barbabietole nostrane come carburante invece di buttarle. Il post è stato ripreso anche da autoblog.it, dove si è generata un'interessante discussione tra i lettori. Passiamo ora al post più letto, una vera sorpresa. È un argomento futile, ma del resto si sa che tira più un pelo di... eccetera eccetera. Stiamo parlando di calendari. Eh sì, perché il post più letto è dedicato al calendario del Parco Siciliano del Nebrodi. Il calendario è stato creato per raccogliere i fondi per l'area protetta e ritrae bellezze poco vestite nei luoghi del parco altrettanto belli. Ne è nata una polemica tra chi è a favore e chi è contro l'uso di questo genere di fotografie per promuovere un parco protetto e sulla reale utilità. Ne hanno parlato anche giornali come il Corriere e Corriere della Sera e la Repubblica. Quest'ultima ha pubblicato le foto del calendario in anteprima. Fatto rimane che, come sempre, le discussioni non fanno altro che aumentare l'interesse ed infatti gli accessi al sito istituzionale del parco sono letteralmente schizzati. Ci siamo capiti. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa puntata del podcast di Ecoblog. Vi pregherei, se avete suggerimenti, critiche o magari complimenti, di scriverci a suggerimenti@ecoblog.it. Un caloroso e rinnovabile saluto a tutti da Bricche e ci si vede su Ecoblog. Speriamo la prossima volta di sputare un po' meno sul microfono. Ciao a tutti!